cominciamo che c'è se no, soprattutto che in piedi dopo un po' non ce la fa più, se dobbiamo anche aspettare la premessa. Bene, per chi non mi conosce, mi chiamo Salvatore Brizzi, mi occupo di esoterismo da un po' di anni. Nell'esoterismo entra un po' di tutto, quindi dall'alchimia, che è la materia che mi piace di più, alchimia spirituale, quindi alchimia applicativa, applicata all'essere, applicata all'interiorità, alla magia con lo stesso scopo, magia intesa come via evolutiva, all'Advaita Vedanta, che è una delle mie vecchie passioni, quindi la filosofia indù, diciamo, ecco, o almeno una parte della filosofia indù, quella che secondo me è sicuramente la parte più elevata. Bene, dentro il termine esoterismo ci possono stare anche tante altre cose, ecco, di qualcosa mi occupo, di qualcosa ne so, di altro non ne so, quindi vedremo nel corso della serata. Questa serata volevo dedicarla alla ricchezza, quindi la scusa, diciamo, è la presentazione del libro La Porta del Mago, che peraltro ho già presentato, quindi non è tanto quello l'aspetto importante, quanto parlare di un argomento in particolare, perché secondo me è estremamente collegato alla magia. Ricchezza è capacità di richiamare la ricchezza nella propria vita in modo magico, tra virgolette, o comunque non utilizzando i metodi consueti, tipo andare a fare determinati lavori oppure andare ad aprire una banca, non aprire una banca, sì, a creare una banca, sì, aprirla di notte quando non ci sono i guardiani. Quindi, a parte i metodi tradizionali, diciamo, esiste la capacità di creare ricchezza nella propria vita, cominciando dall'interiorità. Ecco, penso che se voi siete già persone che un po' frequentano questi ambienti, saprete già che quando si parla di anche di acquisizione di qualcosa che è materiale, questo dipende sempre dall'acquisizione di qualcosa che è prima spirituale. Cioè, se io voglio acquisire ricchezza, devo prima cercare di capire che cos'è la vera ricchezza, perché se no non acquisirò né la ricchezza spirituale né tantomeno quella materiale. Cosa intendo per ricchezza? Che cos'è la ricchezza? La ricchezza è un'emozione superiore, come la definisco io nei corsi che tengo sia qui a Torino sia in altri posti. Un'emozione superiore, cioè un'emozione del cuore. Io posso sentirmi ricco. Posso sentirmi ricco indipendentemente dal mio conto in banca. Questo è importante ed è la chiave di cui parleremo questa sera. Stasera vi do una chiave. Questo non significa che da domani mattina voi sarete in grado di farlo, però intanto avete la chiave, se non altro sapete com'è. Poi un giorno farete un seminario, un altro giorno farete un corso da qualche altra parte, prima o poi tutto torna e alla fine magari riuscirete anche a realizzarlo interiormente, nella vostra quotidianità. Intanto la chiave importante è questa, che di solito non viene detto, però è proprio essenziale saperlo, e cioè che io posso essere ricco, cioè sentirmi proprio ricco, sentirmi come uno che ha dei pozzi di petrolio da qualche parte, che sono suoi. Posso sentirmi ricco indipendentemente da quello che ho materialmente. È importantissimo capire questo. È importantissimo capire che quindi io posso creare una vera ricchezza, perché questa è la vera ricchezza. Io posso creare una vera ricchezza indipendentemente dal fatto che poi riesca o meno a fare un lavoro dove si guadagna tanto, o riesca o meno ad avere un grande conto in banca. E vi sto parlando proprio della sensazione di andare in giro, di andare per il mondo, con la sensazione di avere interiormente tutti quei soldi, con la sensazione di avere qualche miliardo di euro, che è una bella cifretta, in banca. Perché a voi che cos'è che interessa? Perché uno vuole essere ricco? Lo siete mai chiesto? Cioè, qual è il motivo per cui vorrei essere ricco? Non è avere i soldi, cioè non è il fatto materiale dell'avere i soldi, non sto parlando di niente di spirituale, cioè semplicemente una risposta alla domanda: perché vorrei essere ricco? Bene, normalmente vorrei essere ricco perché questo mi dà sicurezza, per esempio, giusto? Vado in giro, io so di avere un conto in banca enorme, vado in giro con una certa sicurezza, vado in giro più rilassato, vado in giro con un altro stato d'animo, è una preoccupazione in meno, è una grossa preoccupazione in meno, giusto? Quindi, ciò che io sto ricercando, quando ricerco un conto in banca di un certo tipo, non è il conto in banca, cioè non è che godo a contare i soldi, vabbè, a parte che c'è qualcuno che gode proprio per toccarli materialmente, ma quello è un caso poi da studiare, da... ci sono delle medicine che si prendono e poi non esce. Ma, quindi nella normalità, diciamo, nella normalità dei casi, non me ne frega niente di andare lì e stare a contare i soldi, ciò che mi interessa è lo status, uno status sociale, uno status interiore di estrema sicurezza. Vado in giro e sono sicuro, rilassato, capite? Anche fisicamente, chi ha tanti soldi si muove proprio, mi sento ricco, il sentirsi ricco è un sentirsi interiore, vado in giro e mi sento ricco, entro in un negozio e compro tutto, vado in un posto, devo andare in un'associazione a fare un corso, no, compro l'associazione, vado alle terme, compro le terme, così decido io quando entrare e quando uscire. Capite cosa intendo per sicurezza? Sentirsi pieni, ecco, un altro modo di dirlo. Chi è ricco va in giro e si sente pieno, assente dentro di sé, è come se l'esistenza lo sospingesse. Avete alle spalle un supporto, un grandissimo supporto. Dovunque vi muovete con sicurezza. Siete all'estero, beh, non ci sono problemi. In qualsiasi momento, carta di credito, ok, alle spalle ho i miei milioni e milioni di euro. Quindi sono sempre tranquillo, dovunque sono. Quindi ciò che ricerchiamo nella ricchezza è questa sensazione interiore. Ricerchiamo una precisa sensazione. Cioè, noi lavoriamo tutta la vita, cerchiamo in tutti i modi, soprattutto giochiamo al totocalcio, giochiamo all'otto, giochiamo al gattavinci, perché abbiamo fame di questa sensazione. Abbiamo fame di questa particolare sensazione di pienezza interiore. È questo che ci occorre. Quindi il primo inganno da cui uscire è proprio questo. In realtà non stiamo ricercando il denaro, stiamo ricercando quella sensazione che avere tanto denaro ci procura interamente. Una vera e propria sensazione. Un andare in giro per il mondo ed essere pieni interiormente. Quindi una volta capito questo punto, cioè che non mi devo focalizzare sulla pecunia materiale, ma devo focalizzarmi sul ricercare quella sensazione, ciò che io vi sto dicendo stasera, la chiave è questa, cioè io posso creare dentro di me una sensazione di ricchezza interiore, di ricchezza che parte dal cuore, anche senza preoccuparmi dell'aspetto materiale, quindi senza preoccuparmi di tutti i soldi, della quantità dei soldi che devo avere da parte. Questa è l'essenza del discorso sulla ricchezza, è semplicemente questo. E qui sta tutta la fregatura del sistema economico moderno, dove badiamo alla quantità di soldi che abbiamo. E quindi cosa pensiamo? Io sono ricco perché ho tanti soldi. Invece non funziona così. Io ho tanti soldi perché sono ricco. È esattamente il contrario. Potete avere tanti soldi solo se vi sentite già ricchi. È esattamente il contrario di quello che vogliono farci credere. È essenziale uscire da questo inganno, se no la ricchezza non la vedete mai, non la vedete proprio, neanche col binocolo. La vera ricchezza la dobbiamo quindi procurare interiormente a noi stessi. Dobbiamo riuscire a svilupparla e vi posso garantire che si può, perché è un'emozione, è una sensazione. Non è uno stato della materia la ricchezza. Dovete proprio, ve lo ripeterò alla nausea, perché ho solo un'ora, però voglio darvi proprio questa sensazione, che voi potete decidere dalla vostra ricchezza a partire da domani mattina. Se voi riuscite a sentirvi ricchi dentro, avete fregato tutto il sistema economico nazionale e internazionale, perché una volta vi sentite ricchi, allora, molto probabilmente, arrivano anche i soldi, ma come conseguenza del vostro sentirvi ricchi. Invece, voi cosa fate? Vivete normalmente, i soldi non bastano mai, vi sentite poveri e pensate, mi sentirò ricco quando avrò tanti soldi. No, è il contrario. Solo se ti senti ricco avrai tanti soldi. È esattamente il contrario. Il pensare, quando avrò tanti soldi mi sentirò ricco, significa che voi non vi sentirete mai ricchi e non avrete mai tanti soldi. Tutte e due le cose. Perdete due piccioni senza una pausa. Non so come si possa fare, però si può riuscire a fare così. il nostro è un continuo inseguire un'idea astratta creata dalla pubblicità, creata dalla società moderna. Per cui il sentirmi bene, il potermi sentire interiormente in un certo stato, deve dipendere da qualcosa o da qualcuno. Solo quando avremo capito che il mio sentirmi bene può dipendere solo da me, dal lavoro interiore che faccio, dalle emozioni che riesco a provare e che partono dal mio cuore, solo se il mio sentirmi bene dipende da questo, io sono libero. Se non sarò sempre schiavo di quello che succede all'esterno, cioè sarò schiavo del mio conto in banca, per esempio, sarò schiavo del mio datore di lavoro, mi caccerà, non mi caccerà, mi terrà, non mi terrà, e già, per io per stare bene dipendo da qualcuno, quindi perché ho paura di ciò che può succedere sul lavoro, di ciò che può succedere nelle banche, nell'economia mondiale? Perché il mio star bene dipende da quello, dipende dall'esterno. Se il mio star bene dipende dall'esterno, io sono uno schiavo, vivo nella paura, vivo nella tensione. Ed è su questo che si basa l'economia di oggi, tutta la società di oggi, sulla paura. È un'economia basata sulla paura. Chi ha, ha paura di perdere. Chi non ha, in altre nazioni, in altre parti del mondo, sperano di avere come noi, a livello materiale. E così si regge tutta l'economia distorta in cui viviamo in questo momento. La paura è la speranza. La speranza di avere qualcosa perché quando avrò i soldi mi sentirò ricco. Ho la paura di perdere i soldi perché quando avrò perso i soldi mi sentirò povero. È assurdo se ci pensate. Se ci pensate con una certa lucidità e in un certo stato, vi rendete conto che è assurdo quello che insegue la gente. Le paure delle persone sono veramente assurde. Sono create ad hoc, infatti. Sono provocate, sono divulgate queste paure. Sono iniettate, direi, nella mente delle persone. Perché non riusciamo a fare questo distinguo, questa divisione netta tra la sensazione che ho e i soldi materiali che posseggo? Perché le due cose sono slegate, sono completamente slegate. Vi dicevo, io posso essere ricco ora e di quello che c'è nel conto in banca posso anche fregarmi. Nel momento in cui sono ricco riesco a riprodurre quella famosa sensazione di cui ho parlato all'inizio, cioè la sensazione di andare proprio in giro ed essere pieno, pieno interiormente, senza problemi. Uno che va in giro senza problemi e sa che se arriva un problema lo risolve così. Ecco, quella è la sensazione che a noi piace, la sensazione che vorremmo. E crediamo che provenga dai soldi. Ma non è così, ripeto. È nostra. La possiamo provocare domani mattina. Ci svegliamo, possiamo entrare in quella situazione. Certo, normalmente occorre un certo lavoro su di sé. Quello che viene chiamato il lavoro su di sé, il lavoro di risveglio interiore, eccetera. Ma volendo, teoricamente, potete ricrearla in qualsiasi momento e sentirvi veramente ricchi. Bene, perché non ci riusciamo? È sufficiente che facciamo un paragone con l'innamoramento e l'amore. Anche l'amore è un'emozione superiore, giusto? L'amore è una bella emozione superiore. E noi però cosa pensiamo dell'amore? La stessa cosa che pensiamo della ricchezza. E cioè, mi sentirò veramente innamorato quando arriverà la persona giusta. Giusto? Che è come i soldi in banca. Mi sentirò veramente ricco quando arriveranno i soldi in banca. Quindi mi sentirò innamorato quando avrò una fidanzata in banca. È più o meno uguale, perché in banca si guadagna bene e quindi sicuramente uno si innamora del fidanzato o della fidanzata in banca. È uguale, è per quello che non ci riusciamo, perché non riusciamo a farlo in realtà per nessuna delle emozioni superiori. Anche per l'amore, noi pensiamo che saremo innamorati quando incontreremo quello che fa ciò che diciamo noi, quando incontreremo qualcuno che ci ama nel modo in cui vogliamo noi, quando incontreremo qualcuno che non ci tradisce, che non ci fa ingelosire, in pratica una bambola gonfiabile, maschio o femmina che sia, cioè qualcuno che fa quello che diciamo noi. Allora lo amo. Allora quella è la felicità, che bello. E aspetto di essere felice quando... Ecco, dal momento che non riusciamo a essere innamorati senza oggetto, chi di voi riesce ad alzarsi la mattina e sentirsi innamorato e rimanere innamorato tutto il giorno? Oggi sono innamorato. Sei la fidanzata? No. È per quello che si innamora. E qualcuno che mi pare la legge contraria. Quando il marito la lascia, lei si innamora finalmente. È una buona scusa per innamorarsi. Comunque lì il ghippo. Io posso sentirmi innamorato, anche se sono da solo. Provoco dentro di me un'emozione superiore. Certo, poi c'è sempre uno stimolo esterno di qualche tipo, però non è legata al fatto di avere o non avere il fidanzato. l'avevo fatto qua, sì, l'avevo fatta qui a Piche 2, una domenica sulla coppia, dove avevamo fatto 2 o 3 ore sulla coppia, dove vi dicevo che nella coppia si può essere innamorati per sempre. Nel vero rapporto di coppia, di innamoramento, nell'amore incondizionato, io posso amare una persona per sempre. Io posso amare una persona per sempre. Questo non vuol dire che l'altro è obbligato ad amarmi per sempre, come pensiamo sempre noi. Io posso innamorarmi ed essere innamorato per sempre. Se l'altra persona dopo 6 mesi, 1 anno, 6 anni, decide di andarsene, perché vuol fare il suo percorso da un'altra parte, è libero di farlo. Sì, posso provare, rimani, sto male, mi ammazzo, svengo, ti prego. Però se se ne vuole andare, alla fine, capito, una persona libera. È così. Bene, posso continuare ad amarlo. Questo è l'amore incondizionato. L'amore incondizionato non ve lo può toccare nessuno. È bellissimo proprio per questo motivo. È intoccabile. Se io amo in modo incondizionato, l'altro può fare quello che vuole. Certo, se sta con me è meglio, nel senso che se vogliamo formare una coppia, è chiaro, se no formo la coppia con un altro. Però il mio innamoramento per quella persona, anche dopo che se n'è andata, non cambia. È uguale. Questo è l'amore incondizionato. Quindi è un amore che non è dipendente dalla circostanza esterna. Non dipende dal fatto che torna a casa tardi la sera oppure torna a casa quando dico io, mio marito o mia moglie. Non dipende da quello, non dipende dal fatto che si stufa di me e se ne va. Allora, questo è il vero amore, incondizionato. Quindi, se riusciamo a fare questo, a slegare la nostra emozione superiore dall'oggetto, dalla presenza di qualcuno, allora saremo in grado di farlo anche con la ricchezza. E viceversa, se impariamo a farlo con la ricchezza, possiamo farlo anche con l'amore. La vera ricchezza, infatti, ha a che fare con l'amore, non con i soldi in banca. È uguale, la stessa cosa, è un modo di sentirsi innamorati, vi dicevo prima, uno va in giro per strada e si sente pieno dentro, cioè ha la sensazione di possedere 10 pozzi di petrolio. Quando io ho quella sensazione, non mi serve più possederli, perché non è più, i soldi non diventano più un problema per me. Vi sto parlando di qualcosa di reale, non di qualcosa di filosofico, mi raccomando, questa non è filosofia, è realtà, le persone lo fanno. Le persone lo fanno, riescono a produrre dentro di sé la ricchezza senza avere i soldi e poi i soldi dopo arrivano, perché hanno prodotto la ricchezza. Quindi non è niente di filosofico, è qualcosa di estremamente pratico. Io posso decidere di sentirmi ricco, pieno interiormente, e quindi i soldi smettono di essere un problema per me. Se voi sapete di avere 10 pozzi di petrolio in Arabia, o da qualche altra parte, insomma, dove vi piace avere i pozzi di petrolio, i soldi non sono più un problema per voi. Avrete altri problemi, ok, però quando siete in macchina che guidate non state a pensare alla bolletta. Adesso lo facciamo. Se ho 10 pozzi di petrolio, no, perché se non altro l'energia elettrica, non so, la benzina, le prime cose le ho, la benzina ce l'ho sicuramente se ho 10 pozzi di petrolio. Se aumenta la benzina, è bello quando dico in televisione, è aumentata la benzina, come se fosse esploso un pianeta. È aumentata la benzina e tutti preoccupati. La sera che non dormo, sta aumentando la benzina. È aumentata la benzina, c'è la viaria. Uguale. C'è la pestilenza, la mucca impazzita, tutte queste belle cose. È aumentata la benzina. Bene, se ho 10 pozzi di petrolio, se non altro, quando aumenta la benzina sono tranquillo. Almeno quello. Bene, questa tranquillità potete riprodurla interiormente, senza bisogno che ci sia una realtà di un certo tipo, indipendentemente dalla realtà. Potete riprodurla dentro di voi e andare in giro con questa pienezza, con questa ricchezza. Qualcuno può dirmi, sì, va bene, ma nel conto in banca i soldi sono sempre quelli. Nel momento in cui voi riuscite a sentirvi realmente ricchi, non solo un pensiero, non è che se domani mattina vi svegliate e cominciate a pensare sono ricco, sono ricco, sono ricco, funziona. Cioè, se poi andate in giro e spendete soldi, poi siete voi che dovete pagare, quindi c'è la storia di una persona che ha fatto così. Aveva interpretato un po' male questa legge, questa chiave. Credeva che bastasse pensarlo. Non è così. Io devo proprio sentirlo. Quando voi avete 10 pozzi di petrolio, sentite di essere ricchi, non è che lo pensate e basta. È una sicurezza che avete dentro, molto forte. Immaginate di ereditare dei soldi, che domani vi svegliate e in mattinata vi dicono, vi annunciano che avete ereditato un sacco di soldi. Improvvisamente cambia, provate a immaginarlo per un attimo, cambia il vostro modo di concepire il mondo, se vi dicono una cosa del genere. Cambia tutta la vostra vita. Perché cambia? Perché vi sentite improvvisamente, e sparisce un problema, innanzitutto sparisce un problema, si dilegua, si scioglie, e vi sentite improvvisamente pieni di qualcosa. La ricchezza è questa, ci si sente pieni. Vi dicono, hai ereditato milioni, milioni di euro. E voi vi sentite pieni. Ah, fatto. Bene, questa sensazione la si può riprodurre. Voi potete sentirvi pieni a partire dal cuore, da qua. Se riuscite a sentirvi pieni da qua, non deve più morire nessuno per lasciarvi l'eredità. Potete far vivere la nonna quanto vuole. Non c'è bisogno di farla fuori. Perché siete già pieni, avete già la ricchezza, che è qualcosa che deve partire da qua sopra, è un'emozione superiore. Vi dicevo, è collegata all'amore. È collegata all'amore. Poi, nella realtà, che cosa succede? Che la situazione reale si adegua alla vostra emozione. Si adegua. Questo non vuol dire che sicuramente avrete 10 pozzi di petrolio, ma che avrete sempre i soldi che vi servono per quello che dovete fare. Semplicemente. Solo i soldi che vi servono per quello che dovete fare. Vi mettete al servizio dell'esistenza. È come mettersi al servizio dell'esistenza. Quando io sono veramente ricco dentro, automaticamente mi metto al servizio dell'esistenza, al servizio di qualcosa che è superiore. Quindi ho i soldi che mi servono. Devo fare qualcosa? Non è che l'esistenza mi costringe a morire di fame. No, fare in modo che io abbia i soldi per fare quello che devo fare, per creare un'associazione, per aprire un ospedale in Africa, per tutto quello che voglio fare, se è il destino che io la faccia, se no vengo fermato. Queste sono le leggi dell'esistenza. Non potete insistere troppo in una direzione che non è la vostra. A un certo punto venite fermati. Ma se voi effettivamente state andando in una direzione giusta, venite aiutati, non fermati, venite spinti, i soldi arrivano, conoscete le persone giuste, le amicizie, ci si ritrova. Incontrate una persona per caso, cavolo, conosce quell'altro che può darmi una mano. Questo dopo che io ho dentro questa ricchezza, mi sono messo completamente al servizio di questa ricchezza. Non cerco più la ricchezza per me, la vera ricchezza non è più per me, è ricchezza e basta, è impersonale, è come l'amore incondizionato, non ha una persona, non ha un oggetto, un soggetto. È una ricchezza, è un'apertura, sono aperto e quindi vengo usato automaticamente. C'è una forza che passa attraverso di me, nelle mie azioni. E quindi vengo guidato nelle mie azioni. Le mie azioni vengono energizzate, l'energia arriva, i soldi sono energia. Quindi questa energia comincerà ad arrivare. Non avrò mai il superfluo. Mentre che idea abbiamo noi oggi della ricchezza? Un sacco di cretinate superflue. È così. L'80% del nostro sentirci poveri è perché aspiriamo ad avere delle stupidaggini a livello materiale che non abbiamo. E allora ci sentiamo poveri. Un sacco di cose inutili, proprio. Ci circondiamo di cose inutili. Ci circondiamo di bomboniere da regalare ai matrimoni e alle comunioni. Ci circondiamo di quella roba lì. Spendiamo soldi e soldi e soldi in questo modo. Nel momento in cui mi sento ricco, i miei bisogni automaticamente diminuiscono, guarda caso. Guarda caso, i bisogni diminuiscono. E anche per questo vengo aiutato, perché l'esistenza sa che non vado a buttare via la mia energia. Userò solo l'energia che mi serve per fare quello che devo fare e sarò centrato, focalizzato sul mio obiettivo. Questa focalizzazione fa sì che passi l'energia e quindi arrivino anche i soldi che mi servono. Se invece spreco la mia energia dappertutto, anche se mi arrivano dei soldi, questi soldi vengono buttati via in mille cose. Immaginate a quanti soldi sprechiamo, perché aspiriamo a una ricchezza finta. Quante persone cambiano continuamente l'automobile, perché vogliono l'automobile che deve essere di un certo tipo, deve essere quella della televisione, deve essere quella sicura, quella che fa rimorchiare la ragazza. Beh, nel momento in cui io ho questa ricchezza interiore, che è interiore, smetto di avere quei punti di riferimento, è ovvio. Non ho più quei punti di riferimento, divento al servizio, mi metto al servizio, quindi avrò la macchina che mi serve per il mio scopo. Può essere una macchina grande, può essere una macchina piccola e veloce. Se la mia vita devo essere veloce, oppure devo trasportare delle cose. Comincia a diventare funzionale, l'aspetto apparenza muore automaticamente. Un vestito mi deve servire per scaldarmi, non mi deve servire per farlo vedere agli amici al bar o alle amiche dal parrucchiere. È tutta la vita che si ribalta. Quindi mi arriva energia, perché so che non sprecherò 1.000 euro per comprarmi una borsetta. Una volta ho visto in una vetrina a Quattolino, tempo fa, quando c'era ancora la lira, però è una cosa che mi è rimasta impressa, eravamo io e un mio amico. Ogni tanto quando ci vediamo ce la raccontiamo ancora. Perché guardavamo in un negozio, adesso non faccio il nome, anche perché non me lo ricordo, quindi, non qual era. Comunque un negozio del centro, di quelli costosissimi, dove vanno i calciatori a comprare le loro cose, ecco. Costi di abbigliamento, dove ti serve a te, ti fanno leggere il libro, eccetera. Vabbè, il calciatore no, però ad altri fanno leggere i libri, eccetera. È un posto dove ti accolgono, dove tu non tiri mai fuori i soldi, cioè vai poi a pagare dopo, va qualcuno a pagare per te. Tu non, i soldi lì non li vogliono vedere, il soldo contante. Ecco, questi posti qui, che è giusto che ci siano, perché c'è una fascia di persone che può permetterselo, e anche questo fa sì che l'economia giri. Però c'era una borsetta da 12 milioni di lire. All'epoca c'era la Panda della Fiat che costava 11 milioni e 500 mila lire. Costava 11 milioni circa, insomma. Allora io e mio amico ci siamo guardati e siamo detti, ma una signora che spende 12 milioni per una borsetta, che macchina ha? Siamo rimasti così un po' scioccati, perché noi guardavamo se costava più la Panda o costava più la Uno. Ma una persona che effettivamente si può permettere una borsetta del genere. Bene, al di là di questo fatto, che ovviamente non è una critica, ripeto, è giusto che ci siano... che ci siano anche queste cose, la nostra società d'altronde è fatta in questo modo, quindi si può permetterselo, se lo permette. Però l'accento era sul fatto che nel momento in cui io mi sento ricco interiormente, non compro più quelle cose, mi compro comunque delle cose che magari costano tanto perché devono essere resistenti, perché devono anche essere belle, perché la bellezza conta, però tutta la parte di spreco se ne va automaticamente, finisce lo spreco. Questo non vuol dire non circondarsi di bellezza, eh. Le cose belle, anche se costano, è bene comprarle, perché comunque è bene circondarsi della bellezza. Quindi chi ha tanti soldi si può permettere cose belle intorno, è fortunato, non è sfortunato, non è uno che distrugge l'umanità, è uno che si circonda di bellezza. Quindi è giusto, questo è giusto. È tutto il lato spreco di una borsetta di 12 milioni. È chiaro che per farla, fra materiali e manodopera, quando se n'è andato 1 milione è tanto. Il resto che cos'è? È spreco, non c'entra più con la bellezza, non c'entra più con la manodopera, con il materiale che deve essere di un certo tipo. Io sono d'accordo, a me piacciono le cose belle, quindi sono d'accordo quando qualcuno si compra qualcosa che è un materiale perfetto, bellissimo, lavorato in un certo modo. Ma capite che su 12 milioni ci possono essere 11 milioni che è solo spreco. Quando anche il materiale più bello, nella fattura migliore, c'è comunque un'enormità che è spreco. Nel momento in cui io mi apro interiormente a questa ricchezza, lo spreco se ne va. Le persone spendono tanti soldi perché sono povere, non perché sono ricche. Quando siete ricchi diventate essenziali. Quando avete questa ricchezza dentro diventate essenziali. Le persone che hanno tanti soldi, spesso, non voglio generalizzare, ma spesso sono povere, estremamente povere. Ed è per questo che sono costrette a accumulare soldi e a comprare le borsette da 12 milioni di lire. Perché devono in qualche modo sentirsi ricchi. E non avendo questa ricchezza interiore, l'unico modo che hanno per sentirsi ricchi è mostrare una ricchezza esteriore. Questo è il meccanismo psicologico. Quindi sono persone che soffrono. Dietro lo spreco c'è una grande sofferenza, quindi è inutile giudicare determinate persone. Sono persone che stanno soffrendo, perché sono costrette a ricrearsi una ricchezza fittizia intorno, in quanto non riescono a vedere la ricchezza interiore che avrebbero. Che avrebbero, basterebbe guardare dentro invece che fuori e vedrebbero che la ricchezza è qui. Quando uno se ne va in giro ricco veramente, ricco a partire da qua, allora lo spreco non riuscite neanche a pensare a qualcosa di inutile, perché tutti i vostri pensieri sono focalizzati riguardano quella che è la vostra missione, ciò che volete fare, le vostre passioni, non riguardano più l'apparenza, come devo apparire, cosa diranno di me. La domanda cosa diranno di me non mi sorge più in testa, non me ne frega più niente di cosa pensano gli amici o i parenti. Quante cose facciamo chiedendoci cosa diranno di me? Andiamo in posti dove non vorremmo andare, perché se non andiamo cosa diranno poi? Si offenderanno? Cosa penseranno poi di me? Faccio il regalo, basterà questo regalo? E se non è abbastanza prezioso, cosa penseranno di me? Non mi ricordo in quale regione, mi sembra in Puglia, perché anch'io sono di origini meridionali, siciliano. Però lì, o almeno nei posti che avevo frequentato io, non c'era questa usanza. So che in alcuni posti c'è questa usanza, cioè i matrimoni si espongono i regali che sono stati fatti agli sposi, col nome, e addirittura qualche volta ho sentito il valore del regalo, proprio esposto su un tavolo. È terribile andare a un matrimonio così, non ci andrei mai, perché per quanto posso dire, vado lì, faccio una figura di cazzo, mi mandano via subito. Mi guardo e dico, ma tu non ti sei neanche ripagato il dolce del pranzo, torna a casa. Quindi è un po' l'apparenza, ecco, è un po' il processo di apparenza. Tu vali come parente nella misura in cui hai fatto un regalo e non esiste, perché poi fanno i calcoli, io lo so come funziona, non esiste che tu che sei un parente più stretto hai fatto un regalo che vale meno di uno magari che non è un parente stretto. Allora che parente sei? Come quello che ti ha conosciuto solo quella sera, ti ha regalato la lavatrice e tu hai regalato due piatti. Tu che sei il fratello, non esiste, vieni cacciato via dalla famiglia. Non... Ci sono domande fino a qui. Poi qualcuno dice, ma di cosa stai parlando? Il servizio di bicchieri. Sì, mentre parlavi mi veniva in mente una cosa della nostra società, che fondamentalmente uno dei messaggi che emergono, che siamo tutti quanti condizionati, è uno dei modi che hanno di condizionare anche per esempio il sistema del doping. Infatti braccio di ferro è essenziale. Cioè, quando tu dicevi che comunque cerchiamo sempre delle energie esterne a noi per cercare di avere quella marcia in più e discorrendo, braccio di ferro è tutta quanta la cultura americana specialmente, ha creato questa società di dopati che hanno sempre bisogno di rivolgersi all'esterno per avere la realizzazione maggiore, per fare avere successo, eccetera, eccetera. Questo è un esempio. Sì, anche il problema del doping nello sport riguarda... No, ma non il doping, cioè è come se a un certo punto inculcassero nella società in maniera molto la filosofia che comunque tu per rendere al massimo hai bisogno sempre dello spinace oppure della caramella oppure sempre qualcosa che sta esterno a te. Il discorso che facevi tu, e loro sono riusciti a inculcarlo. Questo è uno dei strumenti, dei metodi che hanno utilizzato, che utilizzano normalmente. Non so se può calzare. Sì, può calzare, almeno in parte può calzare. Poi al di là della considerazione su una società piuttosto che un'altra, nel senso che più che di società, ad esempio americane in particolare, parlerei di livello di coscienza, che può essere che è trasversale le varie società e le varie culture. Certo, ci sono culture che sono meno influenzate, è ovvio, magari la cultura tibetana non è proprio così influenzata come quella americana o quella italiana, però è comunque si parla sempre di livello di coscienza, perché all'interno di una stessa società ci sono poi frange, situazioni molto diverse. Riguardo al fatto della società dopata, in effetti è così, è un problema che c'è nel doping, in particolare nello sport, e lì si vede molto bene. Ma un esempio di società rivolta all'esterno, che spera che la ricchezza venga dall'esterno, che spera di poter essere felice grazie all'apparenza, ecco, un esempio valido sono le tette rifatte. Le tette rifatte, il problema filosofico, voi non ve ne rendete conto, ma la testa rifatta è il segno che siamo in una società dove per star bene dobbiamo proprio continuamente porci la domanda: ma cosa penseranno di me? E quindi la risposta al mio star bene è: se le persone mi amano, sto bene, se no, no. E per cercare un po' di amore all'esterno, invece che creare per primi questo amore dentro di noi, è l'amore all'esterno che arriva come riflesso, come la ricchezza. Se io creo la ricchezza arriva come riflesso. Se io creo amore, l'amore degli altri mi arriva come riflesso, perché parte da qua. L'amore degli altri sarà solo un riflesso dell'amore che provo io. Bene, se non riesco a fare questo, succede che spero di essere amato dagli altri. Perché in fondo, nella ricerca del successo in una trasmissione televisiva, o nel fare la modella, c'è bisogno di essere amati dentro. Non riesco ad amarmi, ho bisogno di essere amata dall'esterno. E sono disposta a tutto, anche ad aggiungere dei pezzi nel mio corpo, pur di essere amata. È lo stesso nel doping e nello sport. Sono disposto a tutto, pur di essere amato, perché se vinco sono amato, capite? Quando uno vince nella società, quando uno vince in tutti i campi, che sia lo sport, che sia il campo aziendale, è amato, si sente più amato, ed è l'unica cosa che l'uomo cerca. L'essere umano cerca questo tipo di amore e spera di trovarlo all'esterno. Quindi, se io sono disperato nella mia ricerca di amore, sono disposto a rifarmi tutti i pezzi del corpo, a iniettarmi qualsiasi cosa, a calpestare tutti, se sono l'amministratore delegato di un'azienda, perché cerco nei soldi, nel successo, nella fama, quell'amore che non riesco a trovare dentro di me. Ma anche senza andare a cercare i grandi temi, nella nostra vita quotidiana tutti quanti noi facciamo la stessa cosa, lo facciamo tutti, andiamo a cercare l'amore in una situazione esterna, e finché ci va bene, nel senso che fin quando nella coppia non succede niente, non me ne accorgo che il mio amore era basato sulla situazione esterna. Finché non succede niente, non me ne accorgo, sono tranquillo. E quando succede qualcosa nella coppia, che mi rendo conto che precipito una disperazione, perché il mio amore era basato su una situazione esterna. Cioè non riuscivo ad autodeterminarmi. Nelle lezioni che tengo quando faccio la lezione, parlo proprio di un percorso che l'essere umano, che la coscienza dell'essere umano fa, e a un certo punto deve arrivare a diventare un vero individuo. Noi non siamo ancora, nella maggior parte dei casi, dei veri individui, cioè dipendiamo dall'esterno, completamente dall'esterno. Il vero individuo è qualcuno che sta bene da solo, è il single, quello con la S maiuscola, capite? Non solo il single perché non è in coppia, è il vero single, cioè un essere umano in grado di autodeterminarsi, completamente consapevole, centrato, la cui felicità non dipende più dall'esterno. Quando io divento così, allora il mio innamorarmi di qualcuno è un regalo, è ovvio. Non mi innamoro per bisogno, perché sennò muoio. Non cerco di formare una coppia, perché sennò sono disperato. Formo una coppia nonostante da solo stia benissimo. Vi rendete conto della differenza? Vi rendete conto del regalo enorme che faccio all'altra persona? Sto bene da solo non ho problemi. Non ho problemi affettivi, non ho bisogni affettivi. Cioè, sono un essere umano vero, centrato, l'essere umano vero dovrebbe essere così. In più mi concedo un amore per l'altro. È fantastico. Solo lì c'è il vero amore, è ovvio. Se no è un cercare di aggrapparmi a qualcuno. Faccio una vita di cacca, allora devo cercare qualcuno con cui formare una coppia. Così facciamo due cacche in due. Lo facciamo così. Quando è che ci accorgiamo che facciamo così? Quando l'altro se ne va, mi rendo conto che arriva l'abisso. Perché da solo non era un essere umano, cioè da solo era metà. Era metà. Quindi uno più uno faceva sempre uno, per dirla in modo. E lo stesso vale per la ricchezza. Dopo che mi sento ricco, arriveranno i soldi, arriverà magari la bella macchina, se mi serviranno per il mio compito. Ma come un'aggiunta, è una cosa in più. Io dentro starei bene comunque. Se io sto bene comunque, se sono già ricco comunque. Ho conosciuto di recente una persona che non aveva il problema della ricchezza, non aveva il problema dei soldi. E uno è veramente una persona rara, ce ne sono pochi. Questa persona non aveva il problema di soldi. Infatti già quando era giovane, quando aveva 20-25 anni, era uno che non aveva una lira, perché faceva un certo tipo di vita, molto alternativo, ma non aveva problemi. Io mi ricordo, quando io avevo quell'età, è vero che anch'io non avevo una lira, però avevo il problema, cioè, pensavo, speriamo che un giorno la situazione cambi, perché siamo qua, spero che un giorno vada meglio, pensavo che lavoro fare, cercavo la mia strada, ecco. Quindi avevo il problema con i soldi, come ce l'abbiamo più o meno tutti quanti noi, anzi addirittura arriviamo a studiare una certa materia all'università pensando alle possibilità che ci sono dopo di entrare nel mondo del lavoro. Qual è la percentuale di persone che trova lavoro a 6 mesi di distanza dalla laurea? Vado a cercare tutte le discipline, tutti i rami dell'università, ingegneria meccanica, che è una di quelle. Bene, faccio ingegneria meccanica e così trovo lavoro. Ma a te piace ingegneria meccanica? No. Però trovo lavoro. Quindi, ero un po' in quello stato io. Questa persona no. Senza soldi viveva bene, stava bene. A un certo punto della sua vita ha deciso che per fare delle cose, che tra l'altro è uno che bazzica anche in questo ambiente dell'esoterismo, della spiritualità, quindi probabilmente, quasi sicuramente, ha in mente di fare qualcosa in quest'ambito, cioè di costruire delle cose, insomma, di far partire qualcosa di grosso, e ha deciso, faccio i soldi. L'ha deciso. Ha detto, mi servono soldi. E ha pensato subito. Nell'ambiente dell'esoterismo non si riescono a fare i grandi soldi. Puoi arrivare a mantenerti tu, a creare delle associazioni, insomma, puoi arrivare a stare bene singolarmente, ma non fai i grandi soldi sono proprio i grandi soldi, e lui ha ben idea di cosa vuol dire. Se voglio costruire una catena di ospedali, se voglio costruire una serie di associazioni sparse in tutta Italia, bisogna avere tanti soldi. E lui ha detto, in quell'ambiente non si fanno. Quindi mi rivolgo a un altro ambiente, cioè vado, i soldi ci sono, capite? È uno furbo. Non bisogna essere pezzi perché uno fa spiritualità, anzi, spiritualità vuol dire risvegliarsi, uno deve diventare furbo. Se mi servono dei soldi per fare qualcosa, vado a prendere dove i soldi ci sono, è ovvio. Non in un ambiente dove i soldi, che va avanti a offerte libere, in molti casi. E ha messo su 3 aziende contemporaneamente, 3 aziende che stanno fruttando, e gli stanno dando i soldi che gli servono. Anzi, forse 4, ma ce n'è una che sta chiudendo perché quella non va e quindi la chiude. È uno centrato, è uno che dice mi servono i soldi perché devo fare le cose, li vado a prendere dove ci sono i soldi, in quell'ambiente, utilizzando le regole di quell'ambiente, è ovvio. Mettendoci il cuore, è chiaro, fa anche questo perché è una persona che ho visto, è una bella persona, ma utilizza le regole di quell'ambiente. Non va lì regalando i soldi a tutti, se no non li fa i soldi, ci sono degli squali che se lo mangiano nell'ambiente dell'economia. Capite? Nel momento in cui ha deciso di fare i soldi, li ha fatti, li sta facendo e li ha già fatti. Perché non è il problema, non ce l'aveva prima e non ce l'ha neanche dopo. Questo vuol dire non avere il problema dei soldi. Che qualsiasi situazione in cui siete, state bene. E invece chi ha il problema dei soldi, cosa fa? Quando è giovane che ha pochi soldi, sta male perché ha pochi soldi. Ma anche quando poi fa i soldi, si lamenta sempre perché non è abbastanza. Perché se avete un problema con i soldi, ve lo portate dietro, anche se avete 10 pozzi di petrolio. I petrolieri pensate che stiano bene? Magari qualcuno sì. Tutti pensano, magari ce l'avessi io, sì che sarei bene. Infatti voi non ce l'avete, ci sarà un motivo. Petrolieri, non è che stanno bene, si lamentano perché hanno pochi soldi, ma guardate che sembra strano, ma è così. Figli di persone importanti che si suicidano, si sta male, non c'entrano i soldi, non c'entra quanti soldi avete, se vi sentite ricchi dentro state male, vi drogate, vi alcolizzate, vi spiaccicate con la macchina da qualche parte, perché state male, quando uno sta male, si vede nelle sue azioni. Andate in depressione, tutti questi cantanti che sono distrutti, hanno una vita distrutta, l'ultima Britney Spears, ma ce ne sono tantissimi, c'è un elenco enorme, attori, cantanti, gente famosa, gente ricca, dai figli di Agnelli ai nipoti, eccetera. Non è che uno pensa, oh quei soldi lì, io starei bene, tu faresti quello che fanno gli altri, molto probabilmente, staresti male perché se fai male adesso starei male anche dopo, anche se sei il figlio degli Agnelli fai male. È solo se stai bene dentro che vai avanti. Ricevere una grossa eredità vuol dire ricevere una quantità di energia enorme, ed è una prova enorme che pochi superano. Noi diciamo vorrei essere io al posto del figlio di Berlusconi, al posto del figlio di Agnelli, vi schiaccerebbero nel giro di una settimana se foste al posto di quelle persone. Non avete idea delle capacità interiori che bisogna avere per reggere certe posizioni, per reggere una certa energia, la responsabilità di persone, soldi, eccetera. Sono delle prove. Nascere con tanti soldi è una prova, è qualcosa che vi siete conquistati in passato. E si hanno problemi. Se io ho problemi anche con 10 pozzi di petrolio, se ho problemi io dentro. Se non ho problemi, non ho problemi né quando sono senza soldi né quando li ho. I ricchi si sentono fuori. È così. Altre domande? Che ore sono innanzitutto? 8:35. Si è detto che ognuno di noi è esattamente quello che immagina di essere. Mi ricordo che anni fa insegnavo, insomma, e ho chiesto ai miei allievi, voi adesso avete 14 anni, quando avrete 35, cosa vorreste fare? Come diventare grandi? E ci hanno detto, ma io vorrei, mi piace medicina, vorrei fare i bambini, vorrei fare una clinica pediatrica. Poi c'è un altro a fare l'ingegnere, e un altro ha detto, ma a me piacerebbe riuscire a fare 12 scale di condominio, quindi, vabbè, il contratto dopo parecchi anni, ho fatto medicina, mi è piaciuto, ho raggiunto i miei obiettivi, perché fin da ragazzino mi ero in opera. E ho fatto la dottoressa, quindi, e l'altro era un po' scontento perché faccio 10 scale di condominio. Poi io ho avuto una carissima amica, insomma, di Chivasso, amico di Simone Ventura, la conosco da quando aveva 10 anni. E in un club che c'è di sopra che sta dietro, quando aveva 13-14 anni, si metteva davanti alla televisione a giocare a tennis, alla piscina, e davanti alla televisione a darsi la carra. Diciamo, sì, ma cosa fai? Non vedi che ti rimasto. No, io voglio dare quello perché io voglio fare quel lavoro lì, cerco di capire come posso fare meglio e vedere e di prendere, capire da adesso tutti i trucchi che usano loro. Quindi direi che con questa determinazione che mi si immaginava da quel livello è riuscito a raggiungere la sua cosa. Sì. A parte che la Carrà piace anche a me. A me la Carrà piace, quindi capirei quella ragazzina che si metteva a guardare. C'è anche la storia di Britney Spears, appunto. Io ho visto la sua biografia, l'hanno fatta vedere ai suoi MTV, dove si vede questa ragazzina che andava a danza quando era piccola, aveva 6-7 anni, con le altre bambine, e si arrabbiava con le altre bambine perché vedeva che non si impegnavano abbastanza. Aveva da piccola una centratura, una capacità di volere, e poi soprattutto completamente consapevole di quello che doveva fare. Quanti di noi hanno questa consapevolezza? A volte arriviamo anche a 35-40 anni e non sappiamo ancora bene qual è la nostra strada, che è normale, cioè nella società come concepita oggi è normale che uno bandi per 40 anni della sua vita, è la normalità. Beh, ci sono anche queste eccezioni, persone che nascono e già da piccoline hanno ben chiaro quello che faranno, il loro compito è fare quel tipo di lavoro, agire in quell'ambiente. E mi aveva impressionato questa cosa, perché non vedeva la stessa forza nelle altre bambine. Le bambine facciamo danza così, quando fai danza perché la mamma ti porta a far danza. Per lei era la sua vita a fare danza. E mi viene in mente adesso un libro che si chiama The Secret. The Secret parla proprio della capacità di immaginare la propria vita, provare delle sensazioni interiori, emotive, e quindi poi cambiare la realtà a seconda delle emozioni e delle sensazioni che riusciamo a riprodurre dentro. Sono concetti antichi, sono concetti vecchi, perché nel libro stesso l'autrice fa riferimento a persone già del fine 1800, ma secondo me ancora anche da prima. Sono le stesse cose che vi ho detto io, è quella chiave lì, la chiave di poter separare la situazione esterna dal mio sentirmi interiore e attraverso il mio sentirmi interiore cambiare la situazione esterna, a seconda di ciò che io riesco a sentire dentro. Poi quel libro lì, così come in tanti altri libri che vengono da quell'area lì, gli americani sono particolarmente bravi nell'essere divulgatori, ecco. Sono riescono a rendere qualcosa di esoterico che da altri magari viene trasmesso in modo più difficile, più complicato, eccetera, loro lo rendono in modo semplice. Normalmente hanno queste capacità gli scrittori americani, anche quelli dell'ambito scientifico, riescono a rendere le cose molto semplici. E quindi anche lì, senza fare discorsi troppo filosofici, riescono a spiegare alle persone come si può agire nella realtà e cambiare la propria realtà a seconda della capacità di cambiare se stessi, che direi è essenziale, soprattutto per noi che siamo persone che fanno un lavoro su di sé, chi più chi meno, chi da tanto, chi da poco. Una domanda? No, quindi mi è venuto solo in mente da dire che la soap opera Anche i ricchi piangono contiene qualcosa di esoterico. Ebbene sì, anche i ricchi piangono. E come ho detto io una volta, non mi ricordo del quale, anche gli alchimisti piangono. Eh sì, è vero. A parte la questione della soap opera che andrebbe analizzata a sé. Comunque tutte queste cose, come le soap opera, come la nostra classe politica, ecco, nel mio prossimo libro, che sta per uscire e che verrò a presentare anche qui, probabilmente alla prossima conferenza che tengo qua, l'argomento deve essere un altro, adesso mi ricordo che argomento c'è, perché gli argomenti li fissiamo molto prima, però ne approfitterò per presentare il mio libro, che nel frattempo sarà uscito. Ecco, in questo libro, che è intitolato Rifare l'Italia, parlo proprio di questi argomenti. Parlo di società, di politica, quindi parlo del fatto che le soap opera, la televisione in generale, ce la meritiamo, quella che abbiamo, perché è un riflesso della coscienza media di una nazione. La classe politica ce la meritiamo, perché è il riflesso della coscienza media della nazione. È un libro dove si parla proprio di questi argomenti, quindi non più qualcosa di iniziatico come il libro che ho scritto prima, ma applicato a società e politica. Cercare di capire certe dinamiche, come può essere l'immigrazione, l'impunità, il fenomeno dell'impunità che c'è in Italia. Quindi la soap opera ce la mettiamo, sicuramente. Altre domande? Nella vita, secondo me, è anche importante saper dire di no. Perché molta gente tende sempre a dire sì per far paura di tornare da altre persone. Però se uno ha esattamente sa dove andare, di accettare il tuo. Bisogna riuscire a rispondere, a porsi, con il cuore aperto, sempre, nei confronti degli altri. Un po' come faceva Gesù, che era un esperto di cuore aperto, ecco, possiamo, oggi è una moda, gli esperti, un cardiochirurgo, lui apriva il cuore. Oggi sarebbe un esperto di una certa fama, andrebbe in televisione come esperto, lo farebbero parlare come esperto di apertura del cuore. Lui riusciva ad agire con il cuore aperto, sempre, anche quando c'erano da cacciare i mercanti dal tempio. C'erano da cacciare i mercanti dal tempio, perché erano lì che facevano con le loro mercantie, vendevano, prestavano i soldi, eccetera. E a lui questa cosa non gli girava molto giusta. Allora, come si dice nel Vangelo di San Giovanni, fa una frusta con delle corde e inizia a picchiarli e a cacciarli via. È un po' uno dire no, agire con fermezza. Questo può essere fatto anche con il cuore aperto. È importante, importantissimo. Potete fare tutto con il cuore aperto. Nel momento in cui vi sentite ricchi, vi sentite innamorati. Quando uno si sente in quello stato, come dicevo prima, e si mette al servizio, non è più lui che agisce. Sentite che c'è bisogno di cacciare i mercanti dal tempio. Non siete neanche più voi con un vostro desiderio egoistico dell'io a farlo. Non è più Dio che agisce. È un io superiore, è il sé. È il divino attraverso di me che agisce. Io in quanto ego scompaio in quei momenti. Nei momenti di cuore aperto non c'è più una persona che agisce con i suoi problemi personali, che proietta se stessa all'esterno con tutto ciò che ne consegue. Sono al servizio. C'è da agire in un modo? Ok, agisco in quel modo. può essere violento. E vabbè, pazienza, se serve la violenza uso la violenza in quel caso. Si può usare la gentilezza a volte, si può porgere l'altra guancia. Allo stesso tempo ci sono dei momenti in cui dovete agire con forza. Se vi dovete far crocifiggere, se quello è il vostro, se siete venuti per quello, vi fate crocifiggere, non reagite in nessun modo. Ma se in alcune occasioni invece dovete agire con forza, agite con forza. Il giorno che dovete essere presi vi fate prendere. Il giorno che non dovete essere presi non vi fate prendere. Agire con cuore aperto non significa diventare scemi o fessi. Significa agire nel modo giusto al momento giusto. C'è una scena bellissima dove Gesù, sapete che quando Gesù parlava, c'era sempre qualcuno che voleva linciarlo. Proprio in vari punti del Vangelo si dice, cominciarono a tirare le pietre e quindi decisero di andare via, lui e i suoi discepoli. Spontaneamente. Ma magari comincia a piovere, quindi meglio che finché piovono solo sassi andiamo via. E a un certo punto la folla inferocita, c'è scritto così, che la folla inferocita li ha presi e ha cominciato a trascinarli su un monte, su una cima dove poi c'era uno strapiombo, per buttarli giù, per buttare lui, Gesù in particolare, giù, perché poi i discepoli andavano sempre bene, si mischiavano nella folla, meno male, come dopo che l'hanno preso nel Getsemane, meno male se la cavavano, perché, mi raccomando, è giusto così, sennò oggi non sapremmo neanche che esiste Gesù, se loro non se la cavavano in qualche modo, quindi tutto alla fine è perfetto. Comunque in quel caso proprio volevano prenderlo e buttarlo giù. E c'è scritto una frase bellissima, a un certo punto c'è scritto, Gesù, camminando in mezzo a loro, se ne andò. Cioè, immaginatevi la folla, lo prendono, lo trascinano, lo portano fin su, e Gesù, camminando in mezzo a loro, se ne andò. Come cavolo ha fatto? Ma ce ne sono di scene così strane, quelle più famose dell'acqua, del vino, eccetera, ma questo per dirvi, se lui non voleva farsi prendere, non si faceva prendere. Era uno che... Noi siamo qui, a volte parliamo di alchimia, di magia. Beh, se c'è un alchimista, un mago capo, quello è sicuramente Gesù, che riusciva a guarire, a resuscitare i morti. Quindi più mago e più alchimista di lui non esistono. Quando l'atto alchemico per eccellenza è stata la sua crocifissione, dove ha cambiato la vibrazione della terra stessa, quella era la cristificazione della terra. Quindi è chiaro che aveva delle capacità straordinarie. Quindi quando voleva poteva dire di no. Poteva sia agire con forza, sia ingannare tutti e andarsene via. Non c'era nessun problema, ci mancherebbe che uno così doveva aspettare che arrivasse, la catturarono nel Getsemani. Ha aspettato perché dovevano compiersi delle profezie, come lui stesso dice ai suoi discepoli prima. Si dovranno compiere le scritture. Ed è possibile quindi agire col cuore aperto in ogni occasione. E in quel momento fate ciò che deve essere fatto. Come uno Getsemani che dice, ok, se si può evitare evitiamo. Se non si può evitare, si è fatta la tua volontà, è ovvio. Non più la mia, ma la tua volontà. Volevo ancora dirvi un paio di cose su come porsi riguardo al denaro. Sì, infatti volevo fare una domanda, se non posso andare avanti. Per... No, è chiaro il meccanismo della ricchezza interiore, no? Che ha un riflesso sul mondo esterno, circondo. La domanda era un po' diretta. Come? Cioè, c'è un percorso comunque, no? Per creare o per sentire questa ricchezza interiore. Perché comunque noi siamo immersi e bombardati continuamente da modelli sociali, da stimoli che ci deviano, no? Per cui il fatto di centrarsi, no? Su noi e arricchirsi dentro è un percorso, a meno che qualcuno già nasca così, Bodoing, evviva! Sì, è un percorso. E quindi, come? È un percorso e ci sono varie vie. Ci sono varie vie. Bisogna avere... L'importante è avere chiaro l'obiettivo. Se voi avete chiaro un obiettivo, che è un po' il mio scopo di questa conferenza, dirvi qual è l'obiettivo, ecco, si può fare, dirvi questo. Nel momento in cui avete chiaro l'obiettivo, poi, a seconda di quella che è la vostra vibrazione, la vostra frequenza vibratoria, andrete a risuonare con un insegnamento piuttosto che con un altro. quando entrate in una libreria come questa, voi emettete una nota e la vostra nota vi porta a risuonare con una nota simile o comunque con quello che vi serve in quel momento, a scegliere un libro piuttosto che un altro. In questo modo che agiamo, e agiamo così in tutte le cose, quando ci scegliamo gli amici, quando ci scegliamo le scuole esoteriche, quando ci scegliamo i gruppi con cui fare un lavoro su noi stessi, è la stessa cosa. A un certo punto risuoniamo più con qualcosa rispetto che qualcos'altro, a seconda anche da quello che viene chiamato il raggio, cioè la nostra qualità interiore, la nostra espressione interiore, ecco. Però è un percorso, qualunque via scegliate, alla fine è un percorso che può essere più o meno lungo, ma quello dipende dal vostro, dalla vostra situazione attuale, cioè dove siete in questo momento. Ma anche solo per capire dove uno è, non è qualcosa di semplice, anche solo per capire a che punto sono, qual è il punto nave, viene chiamato in alcuni insegnamenti. Già uno deve cominciare a fare un percorso e capire innanzitutto dov'è. Perché magari uno parte e pensa di sapere già tutto perché ha letto molto. Questo è un classico delle persone che incontro nei corsi. Chi ha letto tanto di solito pensa di essere molto avanti. Può essere, cioè può essere che le due cose coincidano, può essere che non coincidano per niente. Può essere che qualcuno abbia letto tanto ma poi in pratica non riesce a mettere nulla. Quando poi è nella materia, nel mondo con i familiari, nel mondo con, nel posto di lavoro con i colleghi. Quindi uno a un certo punto deve proprio capire a che punto è, ma già per fare questo dovete iniziare, ecco. Uno prima comincia, poi dopo aver cominciato comincia a guardarsi intorno e dire ok, questa cosa riesco a farla, questo mio nemico riesco ad amarlo, quest'altro no. Allora, se il 50% delle persone le amo, l'altro 50% no, più o meno sono qui. E da lì cominciate il lavoro. Cominciate il lavoro con un lavoro di miglioramento. Io nei miei corsi propongo un lavoro, poi altre persone propongono altri lavori. Poi ci sono altre vie un po' particolari, come ad esempio la via dell'Advaita Vedanta, a cui ho accennato all'inizio, che a me piace citare ogni tanto. È la via della verità ultima, per cui l'insegnante dell'Advaita Vedanta, il maestro dell'Advaita Vedanta, vi guarda e vi dice, tu non esisti, torna a casa. Ma io veramente ho il problema, chi è il problema? Tu non esisti. Ma il mio ego, il tuo ego non esiste. Non c'è nulla là dentro. Il maestro dell'Advaita Vedanta mi dice, lì dentro, in quel corpicino, non c'è nessuno. Quello che chiamiamo io, non esiste. Non c'è. C'è l'esistenza che fa le cose. Punto. Quando voi pensate una cosa, è l'esistenza che pensa quella cosa. E voi ci attaccate dietro il nome io. Io ho pensato, io ho fatto. Questo dicono loro, questo dicono in questi insegnamenti. Vi piace come via? Non vi piace? Se vi piace, vi informate, cominciate a leggere dei libri. Sappiate che è una via che non è una via. Perché o vi illuminate quel giorno in cui vi dicono questa cosa, oppure vi conviene andare da qualche parte e iniziare una via, un percorso progressivo, un percorso tipo alchemico, interiore, trasformativo. Perché quella è la verità ultima, eh? Alla fine uno si accorge che è così, che veramente c'è solo Dio, c'è solo l'esistenza, e i piccoli ego non hanno nessuna esistenza in sé, sono illusori, la famosa Maya, penso che tutti avete sentito parlare di Maya. Maya è l'illusione, ma l'illusione è data dal fatto che io mi illudo di essere un ego, quindi mi illudo che ci sia un mondo esterno a me, tutto questo è Maya, l'illusione. Beh, hanno ragione, quindi quando dicono l'ego non esiste, il problema è o lo realizzate subito oppure ne sapete tutto prima. Perché il giorno dopo vado sul lavoro, mi incavolo come prima e non ho nessuno strumento per... Cioè, sebbene io in quel momento conosca, almeno sappia a livello mentale qual è la verità ultima, che è quella, però poi col mio collega ho gli stessi problemi del giorno prima. Quindi secondo me si possono ottenere insieme più percorsi. Cioè io decido di intraprendere un lavoro che prevede un percorso progressivo di trasformazione sulle emozioni, trasformazione proprio alchemica delle emozioni, quello che scrivo nel libro Officina Alchemica. Io guardo le mie emozioni, le guardo sempre più dall'esterno e lentamente le trasformo, questa stessa osservazione le trasforma, ci sono degli esercizi, si fanno gli esercizi, si ripetono delle parole e uno si trasforma. Contemporaneamente posso tenere un orecchio e un occhio ad altri insegnamenti, cioè io faccio il mio percorso, mi trasformo, decido di leggere dipende, poi dalle varie scuole, posso decidere di utilizzare il percorso della teosofia, di Elis Bain, piuttosto che quello dell'alchimia, piuttosto che della magia, quello che uno vuole, quello che si sente, le scuole di Burge, ci sono tante, si può scegliere per tante vie, che sono tutte si basano su un percorso progressivo. Però allo stesso tempo potete tenere un'antennina libera che guarda verso quella che viene considerata la verità ultima, quindi questi insegnamenti tipo la Svaita Vedanta che vi dicono guarda che l'ego non esiste. Per molti di noi sarà presto, lo so, va bene, vi entra di qua, vi esce di là, l'ego non esiste, vabbè, a me intanto il mio collega mi sta sulle scatole, cioè, io devo parlare a questo, cioè se non sciolgo questa emozione dentro, se no quello vuole, hai voglia a sapere che l'ego non esiste. Sì, però tenere l'antennina lì, sapere che comunque la verità ultima è quella, cioè che alla fine dobbiamo scioglierci di dentro, alla fine l'ego si deve sciogliere. In alcuni insegnamenti, come nella teosofia, si dice che a un certo punto l'anima stessa si scioglie e rimane solamente lo spirito. Quindi effettivamente quello che è l'io, il mio io, quindi la mia autocoscienza, a un certo punto anche quella andrà a sciogliersi e ciò che rimarrà è proprio spirito e materia che si incontrano, quindi Dio che entra completamente nella materia. Se guardate questi vari insegnamenti, alla fine tutti tornano, alla fine tutti sono vie diverse, approcci molto diversi. Certo, il maestro orientale che certo. Dice tu non esisti è un approccio molto duro, o sei pronto oppure non hai nessun vantaggio. Ma, vi ripeto, io terrei in considerazione anche queste cose. Non è detto che perché uno intraprende un lavoro quotidiano di ricerca non debba anche tenere ben presente cosa significa illuminarsi alla fine. Illuminarsi, sapete che non c'è nessuno che si illumina. Tutto ciò che può succedere è che sparisco io. Ciò che rimane è l'illuminazione. Non si può prescindere da queste verità. Questi sono degli assiomi del risveglio, del vero lavoro su di sé. Poi c'è tutta la parte di trasformazione interiore, di cercare di costruire i vari corpi interiori, di sviluppare l'anima, cioè il corpo causale, di rendere il corpo causale più grande, più luminoso, eccetera. Ma tenere presente che alla fine io devo scomparire, qualsiasi cosa abbia realizzato, qualsiasi iniziazione io abbia ricevuto, dovunque sia arrivato, alla fine devo sparire. Prima di lasciarvi, volevo giusto... Sì, quindi per rispondere alla tua domanda... Sì, ci sono varie vie. È vero. Ha risposto anche a me. Non c'è un modello, ma ciascuno ha la propria... Comunque, qualcosa da fare c'è, ecco. Beh, ad esempio... Noi, solitamente, invidiamo... chi ha più soldi o chi ha più successo, a volte senza neanche accorgercene. Immaginate di avere, ho fatto questo esempio in un posto qualche giorno fa, e effettivamente c'era uno che aveva un'edicola, perché ho detto, immaginate di avere un'edicola e di avere un'altra edicola che è stata aperta un isolato più in là. C'era uno presente in sala che aveva un'edicola, gli hanno aperto un'edicola. Io parlavo, gli diventava sempre più bella. Poi riuscite, pensando al vostro avversario, tra virgolette, speriamo che guadagni tanto. O pensate a ogni persona che vedete che arriva in zona, speriamo che venga da me, che da lui non lo veda neanche. Bisogna confrontarsi con queste cose quotidianamente, con queste piccole cose. Queste piccole cose creano la nostra povertà. Se io ho il cuore aperto, se io effettivamente sono ricco dentro, se voi avete i famosi 10 pozzi di petrolio, ma avete deciso di aprire un'edicola perché vi piace? Mi piace alzare dalle 4 del mattino. Costruite di sogno alle 4 del mattino e svegliate. Cavolo, già sono 10 pozzi di petrolio, sarei tranquillo. Però, visto che alle 4 sono sveglio, vado in edicola. E iniziate a lavorare in edicola. Ma se voi dentro avete questa ricchezza, quando vedete arrivare le persone, cosa dite? Speriamo che una parte venga da noi, una parte vada da lui, in modo che anche lui abbia da guadagnare. E non importa se guadagna chi di me. che è il contrario del capitalismo, se mi sentono quelli mi fanno fuori. Speriamo che guadagni più di me. Questa è la ricchezza. Se sono veramente ricco, se non sono ricco, spero che quello chiuda. Perché se lui chiude, io guadagno di più. A livello materiale, la cosa funziona così. Se lui chiude e guadagna meno, meno lui guadagna, più io guadagno. Cioè a livello materiale è come se fosse, come se di materia ce ne fosse solo una certa quantità. Per cui, se il 20% va a me, l'80% va a lui. Se l'80% va a me, solo il 20% va a lui. Nel mondo della materia è così. E chi ragiona così è completamente identificato col mondo della materia. Ma questa non è la ricchezza. La vera ricchezza è entrare nel mondo dello spirito. Nel mondo dello spirito non valgono più queste leggi. Nel mondo dello spirito io posso avere il 100% e lui anche. So che sembra strano. Sembra strano fin quando queste cose hanno cominciato ad applicarle. E poi vi rendete conto proprio nella realtà che queste cose succedono. Cioè che due edicole possono essere a due isolati di distanza e guadagnare tutte e due. Succedono. Si creano cose particolari, aprono un'università lì vicino, una nuova azienda, arriva molta più gente, tutte e due guadagnano. Ma noi non abbiamo neanche la fantasia di immaginare come può essere. Per cui apro un'edicola davanti a noi e diciamo no, è finita, la metà dei guadagni. Ma perché? Questa è la mentalità della quantità, impugnata nella quantità, nel mondo della quantità. C'era un libro di René Guénon bellissimo, il regno della quantità, i segni dei tempi. Un libro molto bello, siamo nel regno della quantità, per cui mors tua vita mea, nel regno della quantità è così, mors tua vita mea, se lui guadagna tanto io sono fregato, se apro un'altra edicola io avrò la metà dei guadagni, e invece non è così poi nella realtà, se io sono veramente ricco e aperto, succede che guadagniamo tutte e due, e non ho delle inflessioni nei guadagni. È così, perché non possiamo sapere cosa succede intorno. Può cambiare tutta la situazione. Quindi voi stessi nella vostra vita, cosa pensate quando, se qualcuno di voi ha un'attività, ma anche se non avete un'attività, se dovete dare qualcosa a qualcuno, voi ne avete di meno? Normalmente è così. Se do mezza ciambella a qualcuno, io mangio mezza ciambella in meno. Quando invece si dona, in realtà nel donare stiamo già ricevendo. Può sembrare strano anche questo concetto, però nel mondo dello spirito tutti i concetti sono ribaltati. Se io dono qualcosa a qualcuno, è in quel momento che sto già ricevendo. Quindi sono più ricco interiormente perché ho donato. E quindi non sto diventando più povero, non è vero. Quello che ho donato mi tornerà anche materialmente prima o poi. Tornerà anche materialmente. Non significa sacrificarsi alla povertà, eh. Non vorrei che andasse via con questa idea stasera, che ho detto che bisogna essere poveri. Ho detto il contrario, bisogna essere ricchi. Questo non vuol dire che bisogna essere poveri però materialmente e la ricchezza deve essere solo spirituale. Questa è un'altra idea completamente da fuori di testa. Uno può essere ricco spiritualmente e materialmente, perché no? Perché bisogna avere paura della ricchezza materiale? Eppure nel mondo dell'esoterismo, quanta gente che rifiuta il denaro, i soldi, come una cosa sporca. E questo cosa causa? Questo atteggiamento, che c'è in tanti posti, io l'ho notato girando, fa sì che poi i soldi li abbiano in mano solo quelli che di spirituale non hanno niente. Per cui poi nella società, sul pianeta, hanno in mano i soldi quelli che non li considerano sporchi, ovviamente. Quelli che nella materia si tuffano. E quelli che fanno spiritualità, alla fine non fanno un lavoro dal punto di vista esoterico, cioè interiore, ma a livello materiale non riescono ad agire così bene nella materia come potrebbero fare se avessero anche i mezzi. Perché bisogna negarseli questi mezzi? Io ho l'esempio di questa persona che ho conosciuto. Ha deciso di fare i soldi perché voleva agire nella materia, cioè costruire qualcosa di materiale. Hai voglia di riunirsi 20 persone e fare meditazione per cambiare il mondo? Sì che serve, lo so, sono io il primo a dirlo che serve. Ma comincia a costruire nella materia un grande edificio, dentro ci metti un'accademia dove cominci a insegnare alle persone tutte le materie dell'esoterismo. Vuoi vedere che non lo cambia anche così il mondo? Perché bisogna vivere nella ristrettezza perché uno fa le cose spirituali? E poi chi invece fa le cose per sé e mette sulle aziende, inquina, loro hanno tutti i soldi a disposizione perché a loro i soldi piacciono. Mentre noi abbiamo un problema con i soldi. Un altro meccanismo, la puntualità nei pagamenti. Siete puntuali quando pagate. È una stupidaggine, ma è importante, si costruisce la povertà anche così. Quando dovete dei soldi a qualcuno, ma sì, paghiamo l'ultimo giorno valido. Quando vi devono dare dei soldi, dovete andare a prendere dei soldi, subito, primo giorno. Da, potete ritirarli a partire da, siete già lì allo sportello a prenderli. Quando dovete voi consegnarli, o per chi ha delle attività, quando dovete pagare i debiti, quando dovete pagare le fatture, riuscite a avere questo equilibrio? Perché uno lo fa meccanicamente, io me ne rendo conto. Meccanicamente uno tende a fare così, quando deve prendere i soldi fa prima, quando deve darli aspetta l'ultimo giorno. Ma questo vuol dire, poi aspetta l'ultimo giorno perché per avere un po' di interesse in più sui soldi che fino all'ultimo giorno ancora non sono passati a lui, sono ancora miei, quindi gli interessi li sto ancora ricavando io. Gli interessi che a volte sono un euro, due euro. Cioè, delle cose assurde. Eppure, quante persone che basano la loro vita su tutti questi calcoli, su tutte queste cose, creando la povertà, perché immaginate uno con 10 pozzi di petrolio che aspetta l'ultimo giorno per pagare 200 euro al fornitore. Quello di sicuro lo fa. Quello di sicuro lo fa, lo ripeto perché giù in fondo non ha sentito. Questo aprirebbe un discorso, che è importante anche questo, perché strano che non sia ancora arrivata la domanda, infatti hai fatto bene a fare l'intervento, perché se nessuno lo chiede poi si va a casa, uno viene in dubbio, perché uno può dire, ok, ma questi con i pozzi di petrolio, allora vuol dire che loro hanno raggiunto la ricchezza interiore? Non vi è venuta questa domanda? No, ma avevi detto sì. Prima che erano dei più felici. Però perché hanno i soldi nonostante siano infelici? Però intanto hanno tantissimi soldi. Ma sono delle prove. Sono accumulando dei meriti. Però perché noi, che magari abbiamo il cuore più aperto di loro, questa prova non ce l'hanno data. C'è un detto che dice che chi ha il pane non ha i denti e chi ha i denti non ha il pane. C'è anche una, scusa, perché qua c'è un certo spazio, quando i suoni, là voi dite una cosa, qua la risata arriva dopo, proprio un altro parallelo, un altro spagnazione. C'è un tempo diverso. Sì, è una cosa che mi ha detto Alice. La cosa che sta detto adesso riderai tra 5 minuti. Allora, dicevo, aprirebbe un discorso perché dipende dal livello di coscienza di ognuno. Cioè, se io vengo qua sulla Terra e quando veniamo qua sulla Terra non abbiamo tutti lo stesso compito. Cioè, ci sono persone che vengono qui e il loro compito in questo momento, in questa incarnazione, è proprio quello di aprirsi, raggiungere una ricchezza interiore, capire che cos'è l'apertura del cuore ed evolvere spiritualmente. Ma non è così per 6 miliardi e mezzo di persone. Per fortuna, perché se no non ci staremo nella stanza. Però non è così, veramente. Per la maggior parte delle persone sulla Terra, è vero che vengono qua, è vero che evolvono, è vero che alla fine tutti quanti stiamo tornando all'uno, tutti quanti torneremo là a livello di coscienza, ma non è detto che in questa incarnazione siano già pronti per dedicarsi a un certo percorso, per cominciare a pensare all'apertura del cuore consapevolmente, come state facendo voi. Voi consapevolmente in questa vita, a una certa età, avete detto ok, devo fare qualcosa, devo cominciare ad aprirmi e aiutare gli altri. Non è così per tutti. Sebbene tutti facciano un percorso alla fine, perché tutti sono anime che sono in cammino, ci sono quelli che in questa incarnazione devono entrare di più nella materia. Non sono ancora entrati completamente nella materia. E prima di dedicarsi allo spirito, dovete conoscere bene la materia. Se noi già ci dedichiamo allo spirito è perché siamo già passati attraverso quelle cose. Non ricordiamo. Siamo già passati attraverso l'incarnazione completa, cioè l'accumulare la materia. Per cui della materia non ce ne frega più. Vorrei vedere se non prendo un portafoglio stasera. Per vedere che tanta spiritualità c'è. Però diciamo che in linea di massima siamo un po' oltre, abbiamo il problema anche noi dei soldi, abbiamo il problema del possesso, ma allo stesso tempo c'è tutta una parte di noi che di queste cose non ne vuole più sapere. Siamo un po' a metà strada, di solito così, per chi inizia un percorso spirituale. Beh, ripeto, non siamo così 6 miliardi e mezzo di persone. La maggior parte delle persone è ancora qui per incarnarsi completamente, per accumulare soldi, per rubare, per uccidere, pur di accumulare soldi. Quindi, nonostante loro non abbiano per niente il cuore aperto e quindi sentono la ricchezza interiore, per niente, infatti prima ho detto, soffrono molto, nonostante questo riescono ad accumulare miliardi su miliardi su miliardi, e anche con una facilità che noi ci sogniamo, tra l'altro, con grande facilità. Proprio per questo motivo, perché il loro compito è sono sottoposti a una prova. Le nostre prove sono diverse. Qualcuno potrebbe dire, non potrei avere anch'io quella prova lì? No. Perché? Perché non abbiamo una prova? Perché o l'abbiamo già superata, oppure non saremmo in grado di superarla. Come vi dicevo prima, qualcuno che eredita una grande somma di denaro è perché è in grado di reggere quella grande somma di denaro a livello energetico. Però verrà portato al suo limite. Infatti c'è gente che si suicida, c'è gente che sta male, si droga, beve. Perché venite portati al limite della vostra sopportazione. È una prova. Le nostre prove sono diverse. Voi avete altre prove nella vostra vita che non sono inferiori a quelle, ma non riguardano più il possedere miliardi e vedere come reagiamo. Per altre persone è così. Quindi, anche se non hanno la ricchezza interiore, devono sperimentare la ricchezza esteriore in questa incarnazione. E un giorno sperimenteranno quella interiore, vedranno la differenza. Se noi siamo in grado di cogliere la differenza, perché nella nostra anima già c'è questa differenza. Cioè, ha già visto quella esteriore e adesso vuole quella interiore in questa vita. Anche se voi esteriormente vorreste ancora anche quella esteriore. L'anima vuole quella interiore. Perché è solo così che si sente piena. Gli altri ancora non l'hanno capito semplicemente. Pensano di potersi sentire pieni dentro, accumulando tanto all'esterno. Questo per tutta una fascia di persone, nella quale sono compresi anche gli amministratori delegati delle aziende italiane più importanti, nonché i politici italiani. Fate gli scherzi, così ci sono gruppi di anime che sono venute qui per fare certe cose. Se noi non le sappiamo riconoscere, non faccio il gesto perché è brutto, però quello che fanno in Italia è quello. È quello che ci meritiamo perché non siamo in grado di riconoscere, di distinguere le anime. Quelle che sono venute per aiutare, quelle che sono venute perché hanno bisogno di incarnarsi. Pericolosissimo quando siamo governati da un gruppo di anime che è venuto per incarnarsi di più. Perché ne faremo le spese noi. Ma tanto tutto è perfetto perché loro sono un riflesso della coscienza media della popolazione. Quindi alla fine è perché tutti quanti noi, la maggior parte di noi, non è ancora pronta per la via dello spirito. Quanto manca? 9:10. Sono le 9:10? Bene. Che dire? La mente è finita. Dite chi sei. È stato un piacere. Per chi vuole visitare il mio sito è www.antipodedizioni.com. È quello che c'è scritto dietro tutti i libri, ci sono articoli, cose varie. Ci vediamo alla prossima presentazione. Grazie.